professore di storia della filosofia del Rinascimento all'Università di Firenze. Mi sono occupato sempre di studi tardo-medievali e di studi sul 400 e il 500. Prima mi sono occupato di questioni riguardanti la storia dell'occamismo, poi ho lavorato prevalentemente sopra questioni riguardanti soprattutto filosofi e uomini di religione francescani, per passare più tardi a occuparmi prevalentemente di studi umanistici. Ho studiato soprattutto la riforma retorico-dialettica operata dagli umanisti tra il 400 e il 500 e poi mi sono parallelamente occupato dei movimenti religiosi, soprattutto fra la fine del 400, dal 480 circa, sino a metà del 500, in modo particolare delle tradizioni profetiche e poi della nascita anche di nuove tradizioni e tendenze religiose, come il tema della prisca teologia, che ho cercato di ricostruire muovendo da Ficino sino a Francesco Giorgio Veneto, al Sud de Harmonia Mundi e poi all'intervento, interno sempre di questa concezione, delle tradizioni ermetiche e delle tradizioni cabalistiche. E appunto ho proprio recentemente pubblicato un volume dove ho cercato un po' di ricostruire questa storia, un po' da Ficino a Postella. L'argomento di questa relazione ha precedenti assai illustri. Ne occorrerà ricordare come esso sia stato, in certo modo, al centro della celebre querelle storiografica iniziata oltre un secolo fa intorno al capolavoro del Burckhardt e continuata poi così a lungo, almeno per tutta la prima metà del nostro secolo. Sono infatti ben noti i prodromi di quella discussione, già affidati ad alcuni sintomatici saggi del Renan, e poi al fortunato libro del Taude, concordi nel rivendicare a Francesco d'Assisi e al francescanesimo, ma anche a Gioacchino da Fiore, un ruolo storico determinante alle origini della renovatio spirituale, artistica e letteraria che generò il Rinascimento italiano. Sta per scadere il centenario di un'opera che ebbe essa pure una sua lunga e significativa fortuna, l'Italie mystique di Émile Guébert, prodotto tipico di un momento di profonda trasformazione della ricerca storiografica francese, tra la crisi ormai irreversibile dei modelli positivistici, le polemiche intorno alla controversa eredità del Michelet e dello stesso Renan, l'emergere di una crescente attenzione per le vicende della storia religiosa, i primi annunzi del modernismo e la ripresa di contrasti ideologici e politici sempre più intensi. Come il Guébert, nel tracciare a grandi linee la storia religiosa italiana, da Pier Damiani al Contarini e a Michelangelo, e dunque attraverso gran parte dell'età umanistica e rinascimentale, avesse delineato una sorta di itinerario assai drammatico, che si apriva con Arnaldo da Brescia e Gioacchino da Fiore, ma aveva i suoi massimi rappresentanti in Francesco e nei suoi seguaci spirituali, entusiasti e interpreti dei Vatichini e del monaco calabrese, è cosa a tutti notissima. È vero che lo storico francese, erede anche in questo degli studi del Renan, aveva pure dato un forte risalto anche alla continuità di una tradizione razionalistica, tipica di quella civiltà ghibellina italiana, così decisa nel rivendicare i diritti e i poteri della ragione. Non di meno, al centro della sua avventurosa ricostruzione storica, egli aveva posto la personalità di Dante, erede del messaggio francescano, e seguace, cito, della pura religione del cuore, e tuttavia ben disposto a conciliare la sua esaltazione di Gioacchino con la celebrazione paradisiaca di Sigeri di Brabante e a combattere a viso aperto contro le degenerazioni della Chiesa e della gerarchia del suo tempo, nella speranza di una renovatio spirituale integrale nutrita di attese profetiche. È in ogni caso difficile separare la brillante operetta del Gebhard da un'altra concezione storiografica che può oggi apparirci ugualmente lontana in molti suoi aspetti, ma che pure è stata e in certo senso resta ancora il presupposto di molte indagini sul millenarismo e le presenze profetiche nella civiltà umanistica. Quella elaborata da Conrad Burdach e dai suoi discepoli, primo tra tutti il Pio, nel corso di un'amplissima ricerca, nata essa pure sulla fine del secolo passato e continuata con straordinaria tenacia sino alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Le sue linee generali non richiedono certo di essere presentate a specialisti dei nostri studi. Mi limiterò perciò semplicemente a dire che, accentuando fortemente la presenza di temi millenaristici nelle idee e negli atteggiamenti di Cola di Rienzo e attribuendo un valore centrale all'incontro spirituale tra il tribuno romano e Francesco Petrarca, il grande storico e germanista risaliva sulle orme dello Hildebrand alle più lontane origini dello stesso concetto di Renascentia per individuarle, cito, nel mondo della fantasia, del mito, delle concezioni religiose, nella palingenesi propria dei misteri della Grecia primitiva, nel mondo ideale paolino e giovanneo e quindi nella storia delle tradizioni millenaristiche e delle idee politico-religiose proprie della civiltà medievale. L'identificazione della rinascita con la ripresa della cultura classica e la restaurazione dell'antica paideia e di una più perfetta e vera humanitas veniva così a coincidere con la stessa area espressiva del concetto di reformatio che per gran parte dei secoli medievali aveva espresso l'attesa di un profondo rinnovamento cristiano e dell'avvento di un'età nuova sotto il regno dello spirito e della libertà evangelica. Ma il Burdach aveva pure sottolineato il trapasso di quelle parole e immagini dalla sfera religiosa a quella etica e politica, per cui il concetto di rinascenza aveva subito assunto il significato di un rinnovamento generale dell'uomo e della sua vita spirituale, generatore a sua volta dell'umanesimo, quale movimento culturale inteso essenzialmente a realizzarlo. Sicché, se a fondamento delle due immagini di Renascentia e Reformatio stava un comune mistico concetto del rinascere, del venir ricreato, ugualmente presente sia, cito ancora, nell'antica liturgia pagana, sia nella liturgia sacramentale cristiana, era necessario risalire alle concezioni millenaristiche e profetiche tardo medievale, al francescanesimo spirituale e al gioacchinismo e ancora a Dante e Petrarca come massima espressione di un moto spirituale destinato a sfociare da un lato nell'umanesimo rinascimentale e dall'altro nella riforma. O meglio, secondo questa prospettiva storiografica, così preoccupata di individuare il movente primo e comune dei due eventi culturali determinanti per la nascita del mondo moderno, il Rinascimento e la Riforma, si trattava di comprendere finalmente la storia interna di una duplice riforma, quella della spiritualità cristiana in crisi, attraverso il ritorno alle fonti della sapienza classica e della tradizione etica e politica romana, inteso però come un momento di una ben più profonda rinnovazione, e quella della stessa tradizione classica, rivissuta da un'intensa ispirazione evangelica e proiettata verso il rinnovamento della Christianitas, nella stretta connessione tra la rivendicazione della Rinascentia evangelica e il sorgere di nuove istituzioni religiose ben radicate nelle nascenti coscienze nazionali. Si potrebbe discutere a lungo di questa concezione, delle sue radici ideologiche, dei suoi propositi, nonché del suo evidente nesso con un'età di forti passioni nazionali, tra la formazione del Secondo Impero Germanico e la sua drammatica crisi dopo la Prima Guerra Mondiale. E si potrebbe altresì chiedersi se l'eccezionale fatica storiografica del Burdach conservi ancora una sua efficacia per la ricerca attuale, o se non sia da considerare piuttosto come un documento, sia pure memorabile, di una particolare stagione della storiografia tedesca ed europea. Certo, 70 anni di studi e di discussioni hanno ormai profondamente mutato il panorama delineato dalle opere più note dello storico e dei suoi discepoli e affidato alla grande impresa collettiva di von Mittelalter zu Reformation, così come ne hanno dissolto alcuni presupposti essenziali, revocato in dubbio molti risultati e posta in discussione la stessa interpretazione dell'umanesimo. Non meno datata e legata a problemi storici contemporanei, vissuti dal Burdach con sincera passione, ma con altrettanto rigore e libertà intellettuale, appare oggi la forte coloritura nazionale e religiosa imposta ai temi della Rinascentia Renovatio, secondo una lettura che non tiene molto conto del variare delle generazioni e degli ambienti intellettuali e finisce inevitabilmente per appiattire sulle figure di Cola e del Petrarca l'intera vicenda dell'umanesimo. Eppure, lo ha notato in anni non troppo lontani anche Eugenio Garin, non si può disconoscere a questa impresa storiografica il merito di aver posto in luce la forza operante di certe idee o miti che effettivamente appaiono ricorrenti lungo tutto il corso dei due secoli umanistici, come l'idea del progressivo invecchiamento e decadenza di un mondo e di un'età giunti alla fine, del necessario rinascere di una nuova civiltà o di una nuova luce da un lungo tempo tenebroso e barbaro, oppure la certezza di una rinnovata età dell'oro. Ne sembra contestabile il valore di talune indagini specifiche del Burdach su temi letterari e iconologici di lunga durata. Basti ricordare le sue pagine sul mito della Fenice, assunto a simbolo, cito, di processi di svolgimento collettivo, la dinastia, lo Stato, la società, la civiltà nazionale, ma pure espressione dell'idea del nascere e rinascere del mondo, secondo tradizioni e leggende, di cui egli sottolineò le antiche origini egiziane e le radici astrologiche, per non dir poi della sua insistenza sul significato politico che il mito dell'antichità assunse nella cultura dei centri urbani italiani, e dello stretto nesso che intuì tra la ripresa di concetti tipici della religiosità profetica medievale e la nuova etica cittadina elaborata sul fondamento di tipiche concezioni romane. Su questi punti credo che la critica degli studiosi più recenti abbia fornito piuttosto conferme che confutazioni. Ma una volta riconosciuta l'indubbia importanza storica di alcuni grandi temi proposti dal Burdach, va pure detto che la ricerca concreta ha ormai individuato situazioni e processi storici diversi da quelli da lui ipotizzati e che ha visto meglio e più a fondo nello straordinario intreccio di tradizioni, esperienze spirituali nuove, coscienza e intelligenza critica del proprio tempo, attese e progetti di ogni genere, culturali, politici, religiosi, da cui è nata e per cui si è affermata la renovatio intellettuale umanistica. Non solo, sono apparse assai più evidenti le connessioni tra la stessa idea di rinascita e l'influenza di una vasta e diffusa letteratura astrologica, concorde nel legare la necessaria vicenda ciclica di tutti gli eventi e le istituzioni umane agli immutabili moti celesti. È stata assai meglio riconosciuta l'effettiva incidenza di alcune grandi tradizioni esoteriche, dall'ermetismo ai cosiddetti oracula caldaica, dal ritorno di tipici miti gnostici al messianismo cabalistico. Sono state individuate le effettive circostanze e occasioni politiche o religiose che hanno spesso provocato o permesso la ripresa di concezioni profetiche, la diffusione di vaticini e di oroscopi e in generale l'emergere di credenze o di attese di tipo millenaristico. Soprattutto ricerche storiografiche più raffinate hanno permesso di distinguere tra diversi livelli di cultura che pure spesso interagivano e si condizionavano reciprocamente e di ricostruire nel variare dei tempi e delle generazioni i diversi significati assunti da alcuni topoi fondamentali e il mutare del senso attribuito in vari ambienti e momenti particolari agli stessi concetti di Renascentia e di Reformatio. Se volessi schematizzare, com'è inevitabile, i risultati di tali ricerche, direi che da esse sono emersi alcuni dati certi sui quali si potrà naturalmente discutere, ma sempre e soltanto sul fondamento preliminare di testi e documenti sicuri. Il primo di questi dati è il carattere molto specifico della stessa concezione umanistica di Renascentia, che seppure sorge nell'ambito di un nuovo rapporto istituito con le civiltà classiche e di una valutazione radicalmente negativa di un lungo momento della storia umana, è però caratterizzata dalla certezza che l'età delle tenebre, così definita, certo, con espressioni tipiche del linguaggio religioso, è stata o sta per essere sconfitta e che per un processo inevitabile, talvolta descritto come provvidenziale, ma tal'altra presentato come una sorta di legge cosmica, deve ora rinascere un'antica e perduta sapientia generatrice di una nuova perfezione umana. Tale certezza sembra particolarmente nutrita dagli intellettuali delle prime generazioni umanistiche, direttamente impegnati nella lotta contro una cultura che essi ritengono barbara e corruttrice, e nella critica delle istituzioni tradizionali e della loro decadenza. Si rileggano talune pagine, del resto più che celebri, del Petrarca, e si vedrà come l'idea ricorrente della lunga età di decadimento e corruzione culturale, civile e religiosa che l'umanità ha attraversato e che proprio verso la sua fine è diventata ancora più barbara e funesta, si leghi alla speranza del vicino avvento di un'età d'oro, regno delle anime nobili, restauratrice dei veri valori umani. A non lunga distanza di anni, Coluccio Salutati non dubita che proprio con il Petrarca sia iniziata la rinascita, non solo delle lingue e delle lettere, sprofondate nel corso degli ultimi secoli nella miseria più profonda, ma addirittura della vita civile e di tutte le dottrine che ne assicurano il perfezionamento. Il suo discepolo Leonardo Bruni è ancora più deciso nell'utilizzare il topos religioso e millenaristico dell'Etas Tenebrarum per indicare i secoli che corrono dalla caduta della Romana Libertas e poi delle invasioni barbariche, al tempo in cui, ormai consolidate le libertà cittadine e tornata a risplendere la sapienza degli antichi, si è chiuso definitivamente un mondo oscuro e inumano. Ma sarebbe facile ripercorrere molti autori e testi della ricca letteratura umanistica per ritrovare sempre ripetuto questo tema, che ormai ha acquisito la consistenza di un topos fondamentale e che unisce alla decisa laicizzazione e secolarizzazione di antichi schemi millenaristici la proposta di una riforma sempre più estesa di tutti i domini della cultura del tempo e una crescente polemica contro le istituzioni intellettuali dominanti, i modi e le forme della vita ecclesiale, gli stessi antichi ordini politici ormai giunti alla loro definitiva dissoluzione. Vi sono dunque per gli umanisti culture e tradizioni da combattere, una barbarie profonda e radicata da estirpare, un modo di conoscere e di rappresentare da trasformare con il ritorno alla lezione degli auctores. E d'altro canto, v'è la convinzione che l'umanità è giunta a un momento insieme eccezionale e decisivo della sua storia, a un rinnovamento che non è più soltanto aspirazione o attesa e si sta invece attuando nell'opera degli stessi umanisti e soprattutto mediante l'elaborazione di nuovi modelli di educazione e di formazione intellettuali estesi ad ogni forma di vita ed espressione spirituale, comprese le stesse arti figurative, come insegna già Cennino Cennini, e presto pure le tecniche e le scienze rinnovate con l'accesso diretto alle esperienze classiche. Si comprende perché la Renascenza umanistica divenga pure esigenza e richiesta di una profonda trasformazione della stessa vita cristiana, in nome del ritorno alle origini evangeliche e patristiche e del rifiuto di una teologia considerata essa stessa barbara ed estranea al vero insegnamento del Cristo. Con tutto questo, sarebbe erroneo accettare quel certo cliché storiografico che riduce tutta l'esperienza e la storia dell'umanesimo a un banale razionalismo o a un ottimismo di maniera, ignorando proprio quelle pagine umanistiche che denunziano l'inevitabile infelicità della vita umana, riprendendo magari, come farà pure lo spregiudicato Poggio Bracciolini, tipici topoi di tradizione medievale, o che riconoscono l'estrema precarietà di ogni destino soggetto al gioco della fortuna e del caso segnato dal lontano dominio delle stelle. Simili idee, lo dimostrano alcune celebri pagine albertiane, sono presenti nella civiltà umanistica assai più di quanto non lasci intendere l'insistenza di molti interpreti sugli aspetti meramente filologici e tecnici di questo fenomeno, così come non manca la coscienza di vivere in un'età di crescente crisi politica e religiosa e una considerazione spesso molto drammatica e pessimistica di eventi, situazioni e comportamenti umani. Ma anche in questo caso lo storico deve essere molto attento nel distinguere i molti fili che si intrecciano nella trama di una cultura così complessa e d'altra parte assai suscettibile di diverse ispirazioni ed esigenze. Soprattutto non può confondere le evidenti e severe manifestazioni di pietà e di intensa esperienza religiosa pure operanti nel mondo umanistico, con l'antico ideale medievale della Reformatio e la comune celebrazione del nuovo tempo con i temi millenaristici e apocalittici, destinati però a una nuova ripresa nella seconda metà del Quattrocento. Perché se il linguaggio umanistico sa far propria l'idea del continuo nascere, crescere, perire e rinascere di tutte le civiltà e di tutte le culture, Se vuole identificare il proprio tempo con il classico mito dell'etas aurea e adopera immagini e simboli di rara efficacia come quello della Fenice, il contesto storico e culturale in cui li usa è profondamente diverso, legato spesso a concezioni filosofiche, intenzioni polemiche e persino considerazioni politiche assai lontane da quelle prospettate nella pur ammirevole ricostruzione del Buddha. La continuità di certe immagini, suggestioni e topoi non significa infatti immutabilità dei significati, invarianza dei loro contenuti. E lo dimostrano alcuni testi, molte volte citati, che appartengono del resto ad autori più suscettibili di interessi e suggestioni escatologiche. Si pensi, ad esempio, a quel passo del commento del Landino alla Commedia di Dante, scritto per chiosare il mito del veltro, ove è celebrato l'avvento di un'etas aurea, tempo di perfezione e di mutamento generale positivo e fecondo. Ebbene, l'umanista ne stabilisce addirittura l'ora esatta, al 5 novembre del 1484, nell'ora tredicesima e minuti 15, richiamandosi evidentemente alla particolare situazione astrologica di quell'annus mirabilis e non a un calcolo o previsione di tipo millenaristico. Ma anche l'altro massimo umanista platonico, Marsilio Ficino, quando nel 1492 scrive la nota lettera all'astrologo e teologo Paolo di Middelburg, lega il ritorno dell'età dell'oro e del tempo della rinnovata perfezione alla rinascita della filosofia platonica, allo straordinario avanzamento di tutte le arti e ancora ai mirabili progressi tecnici che hanno permesso la costruzione dei grandi orologi astronomici, l'invenzione della stampa, eccezionale strumento della diffusione del sapere. Sicché è chiaro che anche per il filosofo credente nel valore sovrannaturale della profezia, ma ancora più attratto dalle dottrine astrologiche, la renovatio è soprattutto l'emersione della sapienza e delle conoscenze ex tenebris in luce, avvenuta in un tempo che si direbbe predisposto dalle arcane leggi celesti. Più tardi, questo disegno dell'età nuova sarà completato dal viaggio di Colombo, che il suo stesso autore vorrà presentare come la scoperta di un'umanità ancora vivente sotto i segni dell'età dell'oro e che sarà comunque interpretata come il perfetto compimento di un mondo rinnovato e restituito alla sua unità. È mondo nuovo, tempo nuovo. E si verrà già delineando quel punto di svolta della storia, oltre il quale si porranno le frontiere del mondo moderno, di un'età che ancora non sappiamo se considerare ormai chiusa, ma alla quale per ora si contrappongono soltanto i vaghi lineamenti giornalistici del postmoderno. Non voglio insistere ulteriormente su argomenti che mi sembrano piuttosto alti, e preferisco passare piuttosto a parlare di un altro dato reale, che meriterebbe di essere ancora approfondito usando magari nuove tecniche storiografiche, particolarmente attente alle interazioni tra i vari livelli di cultura. La presenza, cioè, durante e oltre tutto il primo secolo umanistico, di tradizioni millenaristiche e profetiche, di evidente ascendenza medievale, la cui diffusione nel tempo non è stata, credo, ancora del tutto bene accertata, ma che molti indizi mostrano in forte ripresa negli ultimi decenni del Quattrocento e non solo negli ambienti popolari, bensì anche tra uomini di indubbia formazione umanistica. Si direbbe, insomma, che la certezza umanistica, nell'avvento di un'età rinnovata, sotto il segno della humanitas e della trasformazione di tutte le forme della vita intellettuale, sia convissuta talvolta nei medesimi ambienti e persino nelle stesse persone, con l'antica suggestione dell'escatologia millenaristica e degli annunzi profetici. e che anzi l'influenza di quest'ultima si è andata crescendo, via via che si rafforzava l'esigenza di un mutamento radicale della vita cristiana e che l'inquietudine spirituale delle tarde generazioni umanistiche trovava nuovo nutrimento nell'accrescersi dei conflitti e della corruzione delle istituzioni ecclesiali e soprattutto nei primi segni di una crisi davvero epocale e di un futuro gravido di pericoli e di sciagure. Si pensi al caso di Luca di Antonio Bernardi, recentemente studiato assai bene da Rusconi, grammatico umanista, maestro del giovane Piccino, così interessato alla raccolta di testi profetici. Che in una simile situazione, caratterizzata anche nella vita intellettuale, da forti interessi per ogni forma di esperienza religiosa, ma anche da notevoli tendenze di critica radicale, spinta talvolta sino all'esplicita miscredenza, riemergessero le attese e le speranze di un'assoluta palingenesi, con i loro temi apocalittici e l'annunzio di un'età di sconvolgimenti e di eventi terribili, prima del definitivo avvento, è cosa che non stupisce. Ma va pur detto che simili fenomeni sono la spia di una realtà storica assai complessa, nella quale il ritorno del profetismo millenaristico, nelle forme più varie, dalle profezie diffuse nelle piazze da cantastorie o da predicatori itineranti o romiti, a elaborazioni più dotte affidate alla scrittura, si mescola con la persistente, anzi crescente influenza delle dottrine astrologiche, affidate ai testi di Al-Bumasa e di Abraham ibn Ezra, ma anche al Liber Revelatorius di Abraham Bahia. E si sa come l'idea di una renovatio imminente e della maturità dei tempi trovasse un forte argomento nella presunta concordia fra i testi profetici e i segni celesti, vicini nell'annunziare la grande crisi delle istituzioni e di tutte le leggi e l'approssimarsi della congiunzione forte che significa mutamento totale. In ogni caso, sin dall'inizio del 400 e nei suoi primi decenni, la predicazione di Vicente Ferrer aveva scosso già anche molte terre d'Italia con l'annunzio dell'approssimarsi dell'Anticristo. E poco dopo, specialmente in Toscana, il domenicano Manfredi da Vercelli aveva diffuso un vaticinio simile, trovando discepoli e seguaci non solo nei ceti popolari, ma anche tra uomini di cultura non ignari della lezione umanistica. Allora né interventi ecclesiastici né preoccupazioni delle autorità civili erano riusciti a impedire che si diffondesse una vasta vena di predicazione apocalittica pronta a richiamarsi ai temi gioacchimiti o alle più recenti esperienze profetiche di Birgit e di Caterina. Poi le speranze di un definitivo ritorno all'unità cristiana, esaltate dal Concilio di Ferrara a Firenze, e l'attesa di una pacificazione universale, l'incontro di tutte le tradizioni cristiane che esso sembrò sancire, poterono indurre anche diversi ambienti e personalità umanistiche a considerare la renovatio e la reformatio come due aspetti inscindibili di un unico rinnovamento che associava la rinascita della cultura al ritorno della purezza evangelica e patristica. In questo senso, taluni atteggiamenti intellettuali di un uomo di chiesa, così profondamente legato al mondo umanistico quale fu Ambrogio Traversari, sono illuminanti, anche in ragione dell'influenza che gli poté rappresentare su alcuni massimi rappresentanti della terza generazione umanistica a Firenze e a Venezia. Certo, i casi fiorentini di più umanisti come Matteo Palmieri o Giannozzo Manetti, così legati a profonde preoccupazioni religiose, che talvolta, specie nel caso del Manetti, assumono caratteri dichiaratamente scatologici, non possono essere generalizzati. Eppure sono l'indizio del volgersi di taluni umanisti verso i problemi più acuti della storia religiosa del tempo, tra la ricerca della concordia e della pace della fede proclamata dal Cusano in una delle sue opere più rivelatrici e la speranza di una rigenerazione del genere umano per l'immensa, illimitata misericordia divina. È stato già sottolineato come sia tipico di questo momento della cultura umanistica quella sintomatica ripresa delle dottrine origeniane già evidenti nel Palmieri e più tardi rinnovata dalla meditazione epichiana, ma destinata a prolungarsi a lungo nella cultura cinquecentesca, con esiti che solo da poco si è iniziato a indagare. Non basta. Proprio agli anni del Concilio è legata la presenza in Italia e in ambienti di indubbia influenza umanistica di un personaggio così emblematico come Giorgio Gemisto Plecchio, che fu indubbiamente uno dei diffusori di miti e testi largamente operanti nella cultura umanistica del tardo Quattrocento, si trattasse di Zoroastro e degli Oracula Caldaica, dell'eccezionale fortuna degli scritti ermetici, del richiamo a una pisca teologica anteriore addirittura alla rivelazione biblica e di espliciti motivi astrologici che spiegano il destino di tutte le religioni o dell'idea di una rinascita platonica come fondamento della restaurazione del vero divino destino umano. In tal modo si cominciò a delineare un nuovo modo di intendere lo stesso messaggio biblico evangelico e i suoi contenuti profetici, mentre la figura del Cristo fu interpretata come quella dell'assoluto intermediario cosmico che, proprio assumendo la carne di uomo, aveva potuto rigenerare l'intera realtà, riconducendo all'unità originaria la molteplicità del mondo creato. Marsilio Ficino espresse nel modo più compiuto e affascinante questa nuova sensibilità religioso-filosofica, ricca di venature gnostiche, nel De Cristiana Religione e nella Teologia Platonica, opere destinate a costituire il terreno d'incontro tra un'idea essenzialmente profetica e cristologica della Pia Filosofia, il mito della Pisca Teologia, la fortuna della Cabala e la ferma credenza nei temi escatologici e nei vaticini della Renovatio Cristiana. Come si è visto, proprio autori che partecipavano a questa particolare esperienza filosofica e religiosa, il Landino e il Ficino, poterono celebrare il ritorno dell'età dell'oro con parole che sono state così spesso citate come espressioni della coscienza umanistica dell'avvento di un nuovo tempo di straordinario rinnovamento del mondo. Ma è significativo che entrambi li scrivessero nell'intensa atmosfera di aspettazione, di attesa, ma anche di timore e di ripresa apocalittica che precedé, accompagnò e seguì la grande congiunzione del 1484, un evento così diversamente interpretato dagli astrologi e dai profeti, ma che comunque fu sentito come il segno di un mutamento decisivo. Non vorrei ripetere quanto mi è accaduto di scrivere in varie occasioni a proposito delle diverse previsioni e oroscopi, ma anche annunzi e vaticini profetici, che in occasione dell'Annus Mirabilis offrirono tante occasioni per meditare sull'imminente destino dell'Europa e della cristianità, in anni di crescente inquietudini spirituali e di diffuse premonizioni sull'avvicinarsi di una grande crisi politica e religiosa. Sicché non parlerò in particolare dei prognostici ad vivinti anno spettante di un astrologo e teologo lovaniense che abbiamo visto corrispondente del Ficino e che sappiamo apprezzato anche da Erasmo, Paolo di Middelburg, del prognostico sino al 1567 steso dal medico e astrologo imperiale Johannes von Littenberg, o del discusso prognostico de versione Europe del ferrarese Tommaso Arquato o Torquato e di altri testi meno noti e influenti. Basterà dire che anche essi furono alle origini di profondi turbamenti delle coscienze e che insieme alle profezie che annunziavano il prossimo avvento dell'Anticristo, la fine del mondo, ma anche l'ultima finale renovatio della cristianità, contribuirono a legare l'oroscopo della religione mutata all'annunzio di un tempo di guerre e di laceranti divisioni della comunità cristiana. Quanto simili idee fossero diffuse, sia ai livelli della cultura popolare, sia tra uomini di media cultura, soprattutto notai e cancellieri, sia tra dotti di indubbia formazione umanistica, è stato almeno in parte chiarito da ricerche che hanno posto in sempre maggiore evidenza l'intreccio fra profezie e previsioni astrologiche, i diversi modi e canali di comunicazione, la notevole interdipendenza tra interpretazione popolare e elaborazione dotta e i loro riflessi religiosi e politici. Certo è che l'instabilità dell'Italia tardo quattrocentesca, le rinnovate minacce di guerre e di invasioni, eventi particolari come la morte di Lorenzo dei Medici e di Innocenzo VIII e poi lo scandaloso pontificato di Alessandro VI e le accuse di corruzione crescente alla sede romana offrirono nuove conferme sia alla richiesta di una radicale riforma in capitis membris sia alla predicazione apocalittica che sappiamo particolarmente diffusa tra la metà degli anni Ottanta e l'inizio dei Novanta. Né mi sembra un caso che anche Girolamo Savonarola iniziasse proprio nel 1484 la sua nuova missione di annunziatore del tempo ormai vicino della necessaria punizione e penitenza. Se ancora il 2 aprile dell'85 Giovanni Mercurio da Correggio poteva cavalcare per le vie di Roma annunziando sul fondamento della sua fede ermetica la trasformazione palingenetica di tutte le cose, era invece ben diverso il tono delle profezie che monaci e romiti portavano nelle piazze delle città e dei borghi d'Italia tra popolani inquieti, perché si tratta spesso di vaticini che con un evidente richiamo gioacchimita mirano a dimostrare la perfetta conformità delle profezie bibliche e apocalittiche con i tempi presenti, esigono dagli uomini di chiesa e di religione la rinuncia a ogni bene e potere mondano, annunziano che tutta l'Italia sarà presto turbata da guerre o da sciagure naturali, predicano il vicino avvento dell'Anticristo preannunziato dai segni celesti, ma riprendono anche l'antico tema del pastore angelico, l'umile religioso destinato ad ascendere alla cattedra di Pietro, a rinnovare la cristianità, a unificare tutte le genti alla vigilia dei Dies Nobis. Le cronache di molte città e terre italiane sono concordi nel documentare la frequenza di simili annunzi, talvolta proposti da religiosi, in specie francescani e agostiniani, ma anche da penitenti e mendicanti e persino da cantastori. Comunque la loro persuasione non doveva essere scarsa, se un ecclesiastico colto come il cronista senese Sigismondo Tizio fu indotto a scrivere un libro sulla fine del mondo convinto che l'Anticristo fosse ormai alle porte e che sarebbe in ogni caso apparso entro il 1600. A Firenze poi la credenza nel futuro Papa Angelico e nell'avvento dell'Anticristo appare ugualmente diffusa sull'onda della fortuna anche della predicazione di Savonarola pure in ambienti di cultura e spirito umanista. Umanista e dottissimo era il futuro bibliotecario di Leone X, Zanobi Acciaioli, che il 14 aprile del 95 si rivolgeva proprio ad uno dei più decisi avversari del Savonarola, il generale dei Camaldolesi Pietro Delfin, per chiedergli di procurargli un libro sull'Anticristo, allora comparso a Venezia, dove se ne indicavano i segni secondo lo schema tradizionale di Alfonso di Spito. Anche il canonico Prospero Pitti annunziava negli stessi anni la devastazione di Roma e la rinnovazione della Chiesa sotto un Papa angelico che avrebbe finalmente convertito turchi e giudei secondo le promesse profetiche. Ne mancava chi faceva eco alla profezia corrente in quegli anni e già prima, anche in ambienti ebraici, di un prossimo avvento messianico, il cui esito, pure tra stragi e persecuzioni crudelissime, sarebbe stata infine la pacificazione universale, la fine di ogni conflitto. In questa prospettiva acquistavano un evidente significato profetico anche eventi che avevano suscitato reazioni di grande paura, come la ormai lontana caduta di Costantinopoli, così deprecata e compianta da tante penne umanistiche, oppure il più recente massacro di Otranto, che aveva suscitato nuovi propositi di crociata, subito tradotti in vaticinio da Annio da Viterbo, l'autore dei testi pseudo-berosiani, presto così legati a una singolare fioritura di miti dinastici e nazionali. Soprattutto insistente era la descrizione affidata a scritture di carattere popolare dell'ormai vicino giudizio universale, della fine imminente delle cose al compiersi dei tempi stabiliti da un misterioso decreto divino. Che simili idee circolassero largamente nella capitale umanistica non meraviglia, solo che si pensi all'influenza che già agli inizi degli anni 90 aveva esercitato la predicazione del Savonarola, giunta alla sua fase più drammatica proprio in occasione della crisi del 94, segnata dalla discesa di Carlo VIII, dal crollo del regime mediceo e della rinascita repubblicana. Non è qui certo il caso di trattare un argomento ancora oggi così discusso e controverso, qual è l'effettivo chiarimento delle fonti, del carattere, delle finalità religiose e politiche di una predicazione profetica come quella savonaroliana, che proprio in virtù della sua tensione millenaristica operò così in profondo nella storia, nella società fiorentina del tempo e anche molto oltre. Voglio soltanto ricordare che la sua presa in ambienti e personalità umanistiche fu indubbiamente favorita anche dall'atmosfera di entusiasmo e di speranza rinnovatrice propria dell'esperienza filosofica ficiniana e da quella attesa di un'universale concordia che aveva indotto Giovanni Pico a proporre l'incontro romano tra i rappresentanti di tutte le filosofie e di tutte le fedi. Non a caso lo stesso Ficino, così portato alla meditazione mistica e alla speculazione astrologica, e così convinto di una propria missione provvidenziale, aveva ritenuto che il dono della profezia fosse assolutamente superiore ai poteri dell'intelletto naturale, una specie di più alta intelligenza che, secondo l'insegnamento di Avicenna, era perfettamente adeguato ai propri oggetti divini. E si sa come il Pio, nell'ultimo periodo della sua vita, avesse accolto con la più grande fede e devozione il messaggio savonaroliano, impegnandosi anche nella sua dura polemica contro l'astrologia. Un compito che sarebbe stato ripreso dal nipote Giovan Francesco, approdato al più radicale fideismo e sempre preoccupato di riaffermare il carattere sovrannaturale della profezia e di difendere la veridicità dei Vaticini e del Domenicano ed anche dei suoi seguaci più estremi. Tra i ficiniani che divennero entusiasti discepoli del Savonarola basterà che ricordi Francesco Verino, Domenico e Girolamo Benivieni, rimasti questi ultimi fedeli per tutta la loro vita ai miti escatologici e ai propositi riformatori del Domenicano. Credo però che l'autore più esemplare di questa sorta di metanoia sia Giovanni Nesi, l'autore dell'Oraculum de Novo Seculo, ammiratore e in certo modo discepolo dell'umanista civile Donato Acciaioli, aveva dapprima ispirato agli ideali del suo maestro le orazioni che tenne ancora adolescente in varie confraternite fiorentine, ma fu presto uno dei seguaci più entusiasti della Divina Accademia. E se il Ficino lo citò tra i propri discepoli nella nota epistola a Martino Uranio, certi testi e documenti mostrano i suoi rapporti con altri conplatonici, nonché con personalità preminenti del mondo umanistico fiorentino, il Poliziano e Bartolomeo della Fonte. ma la profonda ammirazione che nutrì per il Pico contribuì a fargli accettare il messaggio profetico di Frate Girolamo, pur senza mai rinunziare del tutto alle sue convinzioni filosofiche. Certo è che nella drammatica situazione religiosa e politica fiorentina, degli anni tra il 94 e il 98, Giovanni Nesi fu certamente uno dei rappresentanti più tipici di quel platonismo di tono divulgativo e quasi popolare che, come notò il Garin, da ideologia del Principato Medicio, qual era stato in principio, si combinava con nostalgie repubblicane per convertirsi al profetismo savonaroliano. L'Oraculum è infatti un'opera più che singolare, nel suo fitto intreccio di simboli, immagini e temi del più fantasioso esoterismo neoplatonico ed ermetico. Sconcertante addirittura nel presentare il Savonarola, chiamato il Socrate ferrarese, come uno dei maestri della nuova sapienza nutrita dal cabalismo pitiano, e addirittura quasi capzioso nel suo sforzo di unificare atteggiamenti spirituali, forme di religiosità e credenze così profondamente diverse. Non di meno un tema attraverso tutta l'opera: la certezza che è imminente l'avvento del nuovo tempo della cristianità e del genere umano, annunziato dal Pico e dal Savonarola, di un'età che segnerà l'avvento della nuova Gerusalemme, l'arca di salvezza che il frate ha approntato a Firenze, la città rinnovata e purificata, ma anche restituita a libertà politica. Certo il Nesi sa bene che il diluvio annunziato dal Domenicano è diventato drammatica realtà politica con la discesa di Carlo VIII, e altre sciagure terribili colpiranno un mondo di falsi cristiani e peccatori, che l'Italia sarà devastata dai barbari e che solo una durissima penitenza e il ritorno alle virtù religiose e civili potrà permettere agli uomini di evitare le estreme conseguenze dell'ira divina. È però altrettanto certo che è imminente anche il tempo della pace, della concordia universale, della giustizia e dell'unità nel futuro regno di Cristo già esistente in nuce nella città dei Santi. Non dubita nel trionfo finale della Chiesa, liberata dalla sua corruzione, non dubita nella conversione dei maomettani, nel ritrovarsi di tutte le genti sotto un unico pastore e in un unico gregge, e argomento tipico di una parte non piccola della letteratura piagnona, nella cresciuta potenza, ricchezza e gloria di Firenze, la sede scelta da Dio come terra della Reformata. Né questa fede escatologica del Nesi può stupire quando si ricordi che più tardi, nel 1500, un umanista e filologo come Bartolomeo della Fonte scriveva lettere sconsolate, adombrando il terrore del prossimo avvento dell'Anticristo, e che intorno agli anni 10 intratteneva significative relazioni con Francesco da Meleto, il mercante fiorentino che nel convivio dei segreti della scrittura santa e nel quadrivium temporum profetatorum doveva proporre nuovi vaticini millenaristici fondati su possibili schemi gioacchimiti, ma arricchiti dal ricordo di profezie correnti nel mondo ebraico e da lui udite a Costantinopoli. L'Oraculum de Novo Secolo, dedicato a Gianfrancesco Pico, è un'opera che si inserisce in modo evidente nella violenta polemica intorno al Savonarola, esplosa nella primavera del 96 e continuata a lungo in un crescendo di minacciose ammonizioni sul pericolo di un nuovo scisma, della imminente sovversione della Chiesa e della distruzione di ogni ordine e gerarchia. È sintomatico che in una prima versione fosse stato però dedicato a un personaggio tra i più interessanti della vita religiosa italiana del tempo, il francescano bosniaco Juraj Dragišić, meglio noto come Giorgio Benigno Salviati, il futuro autore di una delle più eloquenti difese del Savonarola, le profetiche soluziones del 97, ma anche colui che, servendosi probabilmente di un certo nucleo originale, rielaborò ampiamente e diffuse uno dei testi profetici più fortunati del Cinquecento, l'Apocalipsis Nova, attribuita al beato Amadeo, il francescano portoghese João Menes da Silva. Anche in questo caso non ripeterò quanto mi è accaduto più volte di scrivere a proposito di questo teologo francescano, familiare agli ambienti umanistici di Roma, di Urbino, di Firenze, e che partecipò in qualche modo a tutti gli eventi religiosi più importanti del suo tempo, dalla polemica in difesa di Platone al dibattito sui futuri contingenti, dal caso Savonarola alla querelle contro o pro Reuchlin, e che influì su vari circoli di pietà, come quello milanese della Panigarola e del Bellotti, che fu in parte alle origini della formazione dei Barnabiti, che ebbe indubbi rapporti con i Brissonnet, e amò sempre proclamarsi il più diretto erede del Bessarione. Ne parlerò della fortuna dell'Apocalissis Nova e del suo ruolo nella straordinaria ripresa del tema del Papa Angelico, o di come affascinò tra gli altri un dotto ebraista, Pietro Galatino, e un grande visionario e profeta, che era pure il maggiore orientalista dei suoi tempi, Guillaume Postel. Piuttosto, proprio pensando all'utilizzazione che di questa profezia fu fatta per evidenti scopi ecclesiastici o politici, sarà bene trattare qui brevemente un altro tema inevitabile per chi si trova a parlare di eventi e di fatti dell'età di Machiavelli e di Guicciardini, il quale peraltro era lui stesso un raccoglitore di profezie. La profezia e l'escatologia millenaristica come strumenti di propaganda in un tempo di grandi conflitti e di crisi aspre. Su questo argomento esistono però già numerose ricerche di grande interesse che hanno ricostruito la continuità di alcuni grandi temi tradizionali circolanti per il tardo Medioevo e nei due secoli umanistici, come la profezia del secondo Carlo Magno connessa con quella del pastore angelico, o in generale l'attesa del grande sovrano riformatore della Chiesa corrotta, destinato a liberare la Terra Santa, a sconfiggere definitivamente i musulmani e a convertire gli ebrei prima dell'avvento degli ultimi tempi. Sicché, per restare nell'ambito più specifico della relazione, mi limiterò a ricordare che proprio la discesa italiana di Carlo VIII fu preceduta e accompagnata dalla diffusione di scritture profetiche, cito soltanto quelle assai note di Maître Guillaume de Bordeaux e del medico del re Jean Michel, intese a presentare il re francese come il secondo Carlo Magno e ad adattare alla sua persona tutti i dati più tipici della profezia dello pseudo Metodio e di altri testi millenaristici. Come è noto, anche Savonarola considerò Carlo VIII un necessario strumento dell'ira dei, in personificazione del diluvio che si appressava quito et veloce, ma anche rinnovatore della cristianità e futuro sovrano di un mondo unito e pacificato. Mentre per un suo futuro avversario, il Romito di Vallombrosa, Angelo Leonora, il re di Francia era addirittura l'iniziatore del nuovo tempo, preannunziato dai profeti e al quale tutti i veri cristiani dovevano fedeltà e obbedienza. Ma si potrebbe insistere a lungo sui tanti aspetti sinceri e entusiastici, ma anche ben studiati e diretti a specifici scopi politici, di questa singolare fioritura profetica che, sfruttando topo i millenaristi, simboli, calcoli astrologici e attese riformatrici, seguì la fortuna e poi il declino dell'avventura italiana di Carlo VIII, inizio di quella crisi irreversibile i cui segni erano stati già così a lungo spiati nei cieli. Più tardi la stessa costellazione millenaristica sarà rievocata per celebrare le glorie e propiziare i segni politici di Francesco I o di Enrico II, al tempo delle guerre orrende e dei disastrosi eventi italiani, nutrendo una folta letteratura nella quale ha il più alto e allucinante rilievo la lunga fabulazione mistica del Postel, sempre deciso a legare il suo destino di restitutus e di homo immutatus alla missione provvidenziale della monarchia dei Gigli, nella prospettiva dell'universale palingenesi storica e cosmica di cui si considerava il principale agente. Ma la storia del profetismo e del rinnovato millenarismo dei primi decenni del Cinquecento, tra i terrori delle guerre e la persistente paura di grandi calamità, il diluvio, infauste e discusse previsioni astrologiche e nuova attesa di un'età di pace e concordia, è troppo complessa e ricca di episodi di straordinario interesse per poterla anche rapidamente accennare a conclusione di questo discorso. Certo, lo provano le recenti ricerche di Ottavia Niccoli, non vi mancò la partecipazione di uomini di cultura e di formazione umanistica che di volta in volta recepirono idee, sentimenti e interpretazioni delle vicende storiche e dei segni temporanei particolarmente diffuse nel mondo popolare, ma per dirigerli e riorganizzarli in forme che erano spesso funzionali a fini specifici politici o ai disegni dei poteri ecclesiastici, sempre preoccupati di controllare un fenomeno di cui si avvertiva la crescente pericolosità. In particolare il tema dell'avvento dell'Anticristo e dell'eresiarca suo strumento fu abilmente sfruttato dalla polemica antiluterana, così come era stato usato dal Piccino per ribadire la condanna del Savonarola già impiccato e arso in Piazza della Signoria. Ma non mancò lo sfruttamento di altri segni profetici, come la nascita di mostri umani e animali o di eventi ritenuti sovrannaturali, sino all'episodio forse più impressionante, la visione dell'esercito dei morti sul campo di battaglia di Agnadello, di cui sempre la Niccoli ha illustrato il singolare processo di diffusione che impegnò i più diversi livelli di cultura, le più varie forme di trasmissioni, tradizioni folcloriche e religiose assai diverse. Del resto i lettori di Abby Barbour e di alcuni recenti lavori di Paola Zambelli sanno bene che di questi stessi fenomeni, previsioni, segni e profezie, fu possibile anche una lettura filoprotestante che confermava la missione riformatrice di Lutero e che impegnò talvolta anche uno dei massimi umanisti cinquecenteschi, Filippo Melanchthon. D'altro canto, le stesse profezie politiche, che erano servite per circondare di un'aureola provvidenziale l'avventura di Carlo VIII e poi per celebrare il compito sovrannaturale della monarchia francese e in particolare proprio il mito del secondo Carlo Magno, divennero argomenti ricorrenti nella propaganda filo-spagnola intesa a esaltare la figura di Carlo V e la gloria di una monarchia come quella asburgica su cui i confini non tramontava mai il sole e che era stata visibilmente predestinata da Dio a restituire la pace universale dei tempi aurei di Augusto, ad unificare il mondo e a far trionfare in ogni sua parte la croce di Cristo. Si trattava in parte degli stessi temi che proprio l'ammiraglio del mare Atlantico aveva proposto nel libro dell'As Prophecias, opera comunque elaborata nel suo ambiente, per ribadire il carattere profetico del suo viaggio, che realizzava il vaticinio di Isaia e la missione della monarchia spagnola destinata a riscattare con l'oro delle ultime isole e del Catai il sepolcro di Cristo, a ristabilire in Gerusalemme la cristianità purificata, unico vile dell'unico greggio umano. Ma parole e immagini non diverse furono usate pure da un dotto uomo di chiesa, il cardinale Egidio da Viterbo, così incline ad accettare tanti miti della pia filosofia ficiniana e della cabbala cristianizzata e così attratto anche dal millenarismo gioacchimitico, per celebrare piuttosto il pontificato di Giulio II, sotto il cui regno sembrava chiudersi nella rinnovata unità del mondo il lungo cammino dell'umanità dall'Oriente all'Occidente, da Gerusalemme a Roma, con il ritorno dall'Occidente all'Oriente. La profezia si trasformava così sempre più in uno strumento di poteri e di lotte mondane, mentre lo stesso mito umanistico si scontrava con la dura ferocia di un secolo di ferro, con l'aggravarsi delle più aspre fratture politiche e religiose, con il trionfo dell'intolleranza e della guerra delle fedi. Eppure, nel lento tramontare dei grandi modelli escatologici e dei sogni millenaristici, sarebbe rimasta ferma nelle coscienze la convinzione ancora oscura che si era veramente aperta una nuova età, che non era certo il seculum aureo, che non recava il regno della pace e della giustizia e neppure il pastor angelicus, restauratore dell'unità umana, ma che tuttavia avrebbe mutato per sempre il destino e la stessa immagine dell'uomo. Grazie. Vielen Dank für dieses breite Panorama der eschatologischen Erwartungen eines Zeitalters, das Sie auf der Basis einer breiten Forschung hier entrollt haben. Sie haben die Brechungen im Bilde auch am Ende noch einmal sehr deutlich unterstrichen. Die Brechungen, die sich aus den verschiedenen Schichten der Gesellschaft, die an der die beteiligt waren, ergeben haben. Die Unterschiede, zu den Unterschieden der sozialen Schichten kommen die Unterschiede der verschiedenen Traditionen, die aufgenommen werden, um in der Zeit eine Bestimmung der Gegenwart zu versuchen. Es war zunächst ja nicht so sehr die Erwartung des kommenden Endes, und schon darin zeigt sich am Ende des Mittelalters eine gewisse Veränderung im Rahmen unseres Gesamtthemas an, sondern es war das Bewusstsein des Anbruchs eines neuen Zeitalters, dem man unmittelbar angehörte. Und die Verbindung des Bewusstseins, in einem neuen Zeitalter zu stehen, mit dem Aufgreifen von Traditionen, die wir von früher her kennen, das machte den Bericht so besonders spannend. Die Kombination von apokalyptischen Traditionen und prophetischen Traditionen, die dieser neuen Zeit den Anstrich der Moderne gab, die Umwandlung mittelalterlicher Traditionen in ihrer Verbindung mit dem neuen humanistischen Bildung und dem Bewusstsein, eben in der Renaissance zu stehen, haben Sie insbesondere an der Hauptstadt der Renaissance, an Florenz, aber nicht nur dort, deutlich gemacht, indem Sie die Anhänger der prophetischen Kirchen- und Gesellschaftsreform Savonarolas unter den Humanisten näher uns vorgeführt haben. Wir haben damit aber zugleich auch uns wieder in die Tradition unserer Thematik gestellt, denn wie wir schon gestern Nachmittag ja in einem breiten Panorama ebenfalls vorgeführt bekamen, zeigt sich erneut, dass die eschatologische Bestimmung der Gegenwart keineswegs ausschließt, ja sogar vielleicht fordert, die politische Ausnutzung und den politischen Gebrauch, die politische Funktion solcher Texte und solcher Tendenzen, die in ganz anderer Richtung dann benutzt werden können. Ich danke Ihnen, dass Sie uns am Ende der Tagung so reich an die verschiedenen Themen, die hier zum Teil schon diskutiert worden sind, nochmal erinnert haben im Zusammenhang dieses Panoramas des 14. und 15. Jahrhunderts, und bin mir gewiss, dass dies eine gute Grundlage einer Flussdebatte sein wird. Aber auch hier wieder halte ich mich an die Traditionen, die nicht gebrochen werden sollen. 10 Minuten Pause. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Sie Sie als Studiosa und ich würde doch bitten, erstmal die Borsisti zu fragen. Ich werde sie notieren, ja? Ja, man muss immer ein bisschen Geduld haben, dann bis der Leidensdruck des Schweigens zu groß wird. Ja, bitte sehr. Ja, wo ist das Mikrofon? Jetzt haben wir zwei. Ja, bitte. Erstmal hier. Per quanto riguarda le predicazioni relative alla discesa di Carlo VIII in Italia, agli autori citati dal professore vorrei aggiungere due manoscritti. Uno che è stato pubblicato recentemente dall'Inder, dell'Università Ebraica di Gerusalemme, in cui Carlo VIII viene interpretato come il secondo Carlo Magno. E l'altro invece è l'opera di Giuliano Dati, del Diluvio di Roma, in cui invece Carlo VIII viene visto come una delle manifestazioni terrifiche che preannunciano il diluvio e altri avvenimenti catastrofici. Sì, sì, quello del libro, il lavoro del Dati è poi stato molto utilizzato anche dalla Niccoli, proprio per la questione del diluvio, che è un grosso tema su cui sono tornate più volte sia la Zambelli, sia la Niccoli, sia altri, perché è questo mito della inevitabilità di un diluvio in Italia, e quindi, che assume poi diverse connotazioni, perché ha connotazioni simboliche, ma anche connotazioni reali, una sorta di diluvio universale che deve avvenire inevitabilmente, che appunto è uno dei segni anche, vero, della, anche addirittura interpretata anche come fine del mondo, vero, talvolta. E c'è tutta una discussione che coinvolge tra l'altro anche il Nicco, vero, e poi molti altri astrologi, lo stesso Gaurico, vero, intorno al Gaurico c'è una battaglia addirittura, no? Quindi è un tema molto interessante e lo ha studiato appunto piuttosto bene la Nicco, mi pare, nell'ultimo libro anche. E poi, sì, ce ne sono profezie su Carlo VIII numerosissime, citato le due perché sono tipiche e dimostrano proprio una diciamo quasi preventiva utilizzazione politica, cioè, e queste profezie sono evidentemente confezionate, fatte confezionare da Carlo VIII proprio per uso politico evidente, il che non toglie, ecco, perché non dobbiamo prestare la nostra mentalità, è vero, a altri tempi, che Carlo VIII poi fosse profondamente convinto del proprio ruolo provvidenziale. Ci sono molti documenti che rivelano come Carlo VIII credesse effettivamente di essere predestinato, eccetera. Come poi i caratteri del secondo Carlo Magno potessero essere attribuiti a Carlo VIII, che era notoriamente un nano, tant'è vero che doveva essere issato a cavallo perché da sé non riusciva a salirci. È un po' singolare, perché tutti i caratteri del secondo Carlo Magno sono difficilmente attribuibili a questo bruttissimo sovrano, ma con un po' di buona volontà, se riusciva a far credere che gli fossero propri. Tant'è vero che poi uno dei dati, questo è curiosissimo, la Madame David, in quel libro, vero, sopra Carlo VIII nella immaginazione italiana, ha messo bene in luce per esempio proprio la profonda delusione che suscita il vedere Carlo VIII effettivamente, cioè, perché ci si rende conto che quest'uomo proprio non ha nulla del carattere, non ha nessun carisma personale, è appunto un uomo singolarmente deforme, eccetera, e questo provoca anche una forte, proprio in chi lo vede, vero? Quando passa per le vie di Firenze la gente ha una profondissima delusione. Susanne Tisch aus Marburg. Lei ha parlato del tema dell'età dell'oro legato a una rinascita delle arti. sì. Che poi appare frequentemente anche nella letteratura cortigiana alla fine del 400, e anche nel teatro di Corte, per esempio. Dunque, io vorrei sapere se in questo contesto cortigiano questo tema diventa un puro topos letterario o se ha anche un valore politico concreto. Ha un doppio senso, certamente, come accade sempre. Da un lato, certo, nella letteratura, negli usi letterari, diventa sempre più un topos comune, per tutto il Cinquecento, poi ancora per il Seicento, vero, si trascina questo tema. C'è però, direi, due aspetti che sono interessanti. Da un lato c'è questa utilizzazione del tema dell'età dell'oro, ancora una volta, per ragioni politiche, vero? Cioè molto spesso, vero, c'è la celebrazione del principe come colui che ha portato l'età dell'oro. In una delle tante, posso citare una abbastanza celebre, fatto noto, vero? Nell'età di Cosimo a Firenze, nei primi tempi del Ducato, si susseguono, specialmente nel periodo carnevalesco, ma anche in altre occasioni, anche nell'occasione poi dello sposalizio, vero, con Eleonora di Toledo, queste grandi feste, vero, con carri, eccetera. Ecco, e ci sono due temi soprattutto che ispirano queste rappresentazioni, queste feste, vero. Una è l'idea dell'origine, appunto, mitica, di discendente di Giano Noè, vero? Che è propiziata dall'idea della comune discendenza noaica, dai libri appunto di Annio da Viterbo. L'altro è il tema appunto dell'instauratore dell'età sacra, e quindi proprio Cosimo è colui che ha riportato l'età dell'oro a Firenze, e questo poi questo accade per tanti altri principi, naturalmente. C'è l'idea dell'età della pace, che però diventa un tema, si capisce, molto sentito in un paese come l'Italia, che ha attraversato quasi più di 60 anni di guerre, di stragi, di invasioni, eccetera. E quindi questo tema assume soprattutto la caratterizzazione della pace. C'è poi letterariamente un altro aspetto che è abbastanza interessante, cioè la stretta connessione che si stabilisce tra questo topos dell'età dell'oro e il mito del pastore, il mito della, insomma, la poesia pastorale, il mito appunto del ritorno all'età della semplicità, è vero, quando gli uomini si nutrivano, è vero, di cose naturali, vivevano la vita semplice appunto del pastore. C'è questa contrapposizione del pastore, che è anche un fatto che in parte esprime anche molte volte tensioni all'interno delle corti, è vero? E che d'altro lato però serve di sfondo, è vero, a molte rappresentazioni appunto di corte, a molti fatti di teatro, eccetera. La cosa interessante è che questo tema ha poi anche un suo sviluppo in un'altra direzione, e cioè quella della prima celebrazione del buon selvaggio, l'identificazione degli uomini dell'età dell'oro con gli indios americani che ha scoperto Colombo, che Colombo già nei primi messaggi presenta appunto come uomini dell'età dell'oro, che ignorano il mio e il tuo, è vero, che vivono questa vita semplice, che non ha un tema che poi Pier Martire d'Anghiera, vero, nelle sue lettere diffonde poi in tutta Europa. Quindi c'è questa prima identificazione, è l'inizio del mito del buon selvaggio, ed è tipico con questo collegamento dell'età dell'oro, vero? Per esempio, proprio è tipico proprio il ritorno poi di certi temi letterari. Si sa che una delle figure tipiche della presentazione dell'età dell'oro è l'idea appunto la quercia, no? L'uomo che vive nei boschetti di querce, appunto, che si nutre delle ghiande addirittura, vero, semplicità originaria della natura. E il discorso appunto di Egidio di Abiterbo che ho citato, e insiste costantemente sulla quercia dello stemma di Giulio II, è vero? Che anche così nella sua stessa figura araldica rappresenta appunto il tema dell'età d'oro. Wunsch. Darf ich dann gleich wieder bei Egidio da Viterbo anknüpfen? Es hat mir besonders gut gefallen, so dass Sie ausgerechnet mit Egidio Ihren Schlussbetrachtung gemacht haben. Denn ich finde, gerade in einer globalen Betrachtung unser Zusammenhang ist Egidio gewissermaßen die Ausgleichsfigur. Der ist, wie Sie sehr schön ausgearbeitet haben, derjenige, der die christliche Kabbalah mit der johidischen Prophezei sowie mit einer Position in der kirchlichen Hierarchie, wo er tatsächlich seine Vision des goldenen Zeitalters umsetzen kann. Als Ordensgeneral, als Vertrauter an der Kurie, der ist gerade diejenige Person, die unsere diversen Strömungen zusammenführen kann. Herr Rusconi hat gestern ganz kurz darauf verwiesen, Egidio, seine Vision des goldenen Zeitalters am 5. Laterankonzil, und es hat mich damals zu der Überlegung gebracht, hinsichtlich der Entdeckung der neuen Welt, wie präsent gerade bei Egidio und seinem Kreis diese Vorstellung war: Jetzt haben wir so eine Erlebniserweiterung bekommen, dass irgendwie die Endzeitvorstellung nicht mehr aktuell geworden ist. Des Weiteren vielleicht im Hinblick auf Egidio die Betonung der Reform als ein globales Programm. Der geht weit über die Ordensreform heraus. Er verwendet die Prophezeiung, er verwendet die Eschatologie, aber er verwendet sie in einer eklektischen Mischform, die wir auch bei Marsilio Ficino finden, nur mit dem Unterschied, Egidio ist in der Position, wo er als Gestalter mitwirken kann. Und ich glaube, deswegen war ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie so Ihre, man könnte sagen, so Circolo Platonico so schön geschlossen hat. Ich danke Ihnen sehr dafür. Sì, Egidio da Viterbo è una personalità estremamente complessa, che è stata ora cominciata a studiare, anche se il libro di Padre Amolli è un bel libro, ma studia solo taluni aspetti, vero, di Egidio, che andrebbero invece molto estesi. Tra l'altro, purtroppo, una gran parte, vero, dei testi di Egidio da Viterbo è ancora inedita. C'è un programma ora di pubblicazione dei testi, ma temo che sarà una cosa molto lunga e non so con quante probabilità di riuscita. Comunque è certo un personaggio per molti aspetti eccezionale e straordinario. Si sa adesso abbastanza bene quali erano i suoi programmi riformatori. Certo è persona che ha una profonda vocazione religiosa, che ha un profondo desiderio di rinnovamento della Chiesa, del suo stesso ordine, vero? Si sanno, conoscono bene i suoi rapporti con Sadoleto, quanto ha avuto influenza sulla formazione di Sadoleto, quindi un personaggio molto importante. E anche culturalmente, certo, è di un estremo interesse, perché lui si è trovato a vivere a Firenze nell'età, tarda età ficiniana, è vissuto in rapporto con tutti questi, con tutti i circoli intellettuali fiorentini, ha avuto certamente rapporti con Pico, è vero, e da Pico ha tratto questo fortissimo interesse per la Cabala. Poi c'è un'altra componente molto interessante della sua formazione culturale, che deriva proprio, direi, dalla stessa origine, poi dal fatto di essere naturalmente familiari o quasi inevitabilmente, cioè l'incidenza che ha avuto su di lui e tutto il mito elaborato da Annio da Viterbo, suo concittadino, è vero, e che lui certamente ha conosciuto da giovane. Annio da Viterbo, vabbè, era un domenicano, ma ha avuto un momento di grande, poi anche potere nella Chiesa quando era maestro dei Sacri Palazzi. E sappiamo che il mito di oggi si è cominciato a prendere un po' più sul serio questa figura, è vero che ha avuto una sorta di damnatio memoriae per il fatto ovvio che gli scritti pseudo Berosiani sono, se vogliamo, un falso storico fatto da lui. Però c'è l'idea che sta dietro, è vero che in qualche modo è partecipata anche da Egidio, ed è l'idea di questa antichissima tradizione religioso-sapienziale che ha le sue radici non più, questo è un punto fondamentale, in Grecia. I greci anzi sono appunto mendaci, falsi, eccetera, ma nell'antico mondo della scrittura, cioè la Siria, è vero, la Palestina, la Siria, il Libano, cioè questo mondo che è la radice dell'antica sapienza, è vero, legata poi a questo mito di cui Egidio partecipa in pieno, di Noè come padre di tutti i popoli. È vero? Un tema che poi ritroviamo in Postel, che ritroviamo in una Le Mer de Berge, che è stato ricordato ieri, Le Mer de Berge, che ne fa un'utilizzazione vastissima, ed è l'inizio proprio di tanti miti anche nazionalistici europei. Ma il punto interessante è che tutti questi temi si raggruppano veramente in una totalità, come diceva lei giustamente, in Egidio, che ha una sua coerenza profonda, che spiega poi, per esempio, il suo evidente rapporto anche con le pubblicazioni dei testi gioacchimitici a Venezia. Senza dubbio Egidio ha avuto una notevole influenza su Meucci, che era un agostiniano anche lui, è vero? E che ha dedicato anche alcune edizioni a Egidio. Come ha avuto certo rapporti, perché ci sono alcune sue lettere che lo provano, con l'altro maggiore sostenitore di una interpretazione molto vicina alla sua, di carattere, diciamo, gnostico-cristiana con forti incidenze cabalistiche e neoplatoniche, cioè Francesco Giorgio Veneto, col quale lui ha avuto rapporti, è vero, proprio per la comunanza, direi, degli interessi cabalistici soprattutto, e anche per certe visioni di rinnovamento, è vero, all'interno della cristianità. Cioè, quindi è un personaggio veramente da studiare fino in fondo. Poi ha avuto anche molta influenza su tanti ambienti, sia culturali sia religiosi italiani, anche non soltanto italiani. Dico, in parte ho una curiosità la signora, ma per un altro aspetto e non su un personaggio specifico. C'è una continuità di tematiche, diciamo, propriamente medievali indubbia, una continuità, mi pare di avere capito, soprattutto gioacchimitica. Sì, ecco. Allora, la prima domanda che vorrei fare è questa. Si tratta di una ripresa specifica di specifiche opere di Gioacchino o si tratta di una ripresa un po' sincretistica? E poi, è solo Gioacchino o c'è presenza di Olivi? E dico questo pensando proprio ad alcune notazioni emerse dalla relazione Paciorski, no? Cioè di questa diffusione poi di testi che circolano sotto il nome di Gioacchino o anche di Olivia, sono stati indicati, no? Ma questo è un ambiente diverso, completamente diverso da quello che abbiamo. È un ambiente oltretutto che ha il culto, no, della verifica, possiamo pur dire, filologica, Ecco, allora mi interesserebbe sapere, se è possibile, se allo stato anche delle attuali edizioni si possa individuare una attenzione filologica a questa tradizione di testi, oppure se si tratta di una ripresa, ripeto, sincretistica. Grazie. Ecco, l'impressione che io ho è che si tratti di un forte sincretismo, cioè i temi, sì, sì, i temi che vengono ripresi secondo me passano molto anche attraverso compilazioni, probabilmente passano attraverso questo caso che ho citato, ovvero del maestro di Ficino, che raccoglie proprio un quaderno di profezie, cioè sono diverse profezie che raccoglie, che copia e che poi ricopia, come ha mostrato bene proprio il Rusconi, ha visto bene la, il rapporto fra le due, per spiegare Carlo VIII, no? Per spiegare la crisi. Ecco, sono, si vede benissimo da quello la, la, proprio la compilazione, cioè si raccolgono tutte queste tradizioni profetiche, spesso senza guardare poi molto bene neanche le loro differenze. Adesso. E direi però, ecco, che poi c'è, c'è un intermediario, secondo me notevolmente importante, che a Firenze poi ha una sua ragione di essere importante, e sono le profezie brigidine. Perché a Firenze c'è una forte presenza, c'è un convento di brigidini, un convento, sì, che ha rapporti, per esempio, fra l'altro risulta chiaro che per, proprio questi monaci, per esempio c'è un testo curiosissimo che ho studiato proprio ora di recente, proprio di quel personaggio che ho citato, il Dracisi, il quale dice a un certo momento, scrive un testo straordinariamente tipico di certe utilizzazioni delle, di queste concezioni, perché il Dracisic, quando Francesco Maria della Rovere ammazza il cardinale di Ravenna a colpi di spada nelle strade di Ravenna, cosa fa? Siccome il Papa deve, Giulio II deve per forza prendere provvedimenti contro il nipote, poi probabilmente lo stesso Papa Giulio vuole avere dei pezzi di difesa, no? E poi assolverlo come farà in seguito. E allora questo scrive un libro per giustificare l'assassino e curiosamente usa proprio testi, da un lato, vero, si richiama un tipico tema che, spiritualistico, vero, la voce di Dio che parla, quindi l'ha fatto per istinto divino, cioè. E poi parla anche, porta dei testi profetici e cita, fra l'altro, dice, un, come ho saputo da un libro della Beata Brigida, che mi è stata data dal superiore del convento brigidino di Firenze. Quindi c'era questa circolazione confusa anche di Brigida, testi probabilmente giacchimitici, spuri o reali, probabilmente riassunti, no? Poi sì, citano, ma non mai chiaramente, non difficilmente si può. Però certi temi evidentemente hanno quell'origine. Però è difficile trovare proprio un riferimento specifico. Del resto lo stesso Savonarola dichiara sempre di non conoscere, no? Che io, sul quale, cosa sulla quale io ho fierissimi dubbi, come li hanno del resto ora anche i nuovi storici di Savonarola. Il Marchese Ridolfi crede che veramente non conoscesse questi testi. Io ne dubito assai, doveva conoscerli evidentemente. Sì. No, no, lui non è, anzi lui dice, io non conosco niente dei profeti recenti, conosco solo quelli dell'Antico Testamento, che a mio parere non è affatto vero. Ma a parte questo, poi ci sono delle utilizzazioni interessanti, perché se prendiamo proprio l'Apocalisse Nova, che è un testo singolarissimo secondo me, ecco lì proprio vengono ampiamente citati. Si cita Giovattino, si cita lo pseudo Telesforo, si cita Brigitte, cioè questo è la mentalità del Dracisi, cioè questo in fondo è un eclettico raccoglitore che mette tutto insieme, no? Insieme ai Vangeli apocrifi, insieme probabilmente, io penso, anche a tradizioni veramente di origine balcanica che lui riprende, E c'è tutto questo mescolarsi in questo testo profetico stranissimo, perché per gran parte è un trattato teologico, poi di tipo scotista, come era scotista il Drampis, il quale ha utilizzato con grande probabilità questo primo nucleo della profezia dell'Amadeo. È vero che l'Amadeo avrebbe scritto sotto dettatura dell'angelo a Roma, è vero, quando era confessore di Sisto IV, e che poi il Drachis ci ha aperto, è vero che c'era questo plico chiuso, aperto in casa del cardinal Carvajal insieme a Domenico Grimani e altri, e che ha cominciato a mandare a Firenze, è vero, ai suoi vecchi amici savonaroliani, a pezzetti, è vero, che via via la rimpastava e la rielaborava completamente lui, e che io ritengo sia proprio questa diffusione connessa ai due concavi successivi, è vero, dopo la morte di Alessandro VI, dopo la morte di Pio III, quando Carvajal spera fortemente tutte e due le volte di diventare papa e di presentarsi come Papa Angelico. Ich möchte nur ein paar Stichworten, ein paar Punkte nennen, deren Diskussion zu dem Vortrag und zu dem im Zusammenhang der gesamten Tagung sich lohnen würde, wenn wir Zeit hätten. Das eine ist also die 20er und 30er Jahre des 16. Jahrhunderts stellen, wie ich das sehe, so eine Art Orientierungskrise dar für das italienische Milieu, vor allem die Kirche. Für mich, ich finde da immer ein Symbol da drin, diesen traurigen Faktum, dass die beiden Medici-Päpste, die als Echo humanistischer Erwartungen, der erste, Leo, sozusagen immer noch als der gute Papst, von dem man viel erwarten kann, angesprochen worden sind, in der schönen florentinisch-gotischen Kirche in Rom, Santa Maria sopra Minerva, so miserable Grabdenkmäler gekriegt haben. Fast eine Damnatio Memoria, ein schnelles Verstecken, ein Umschalten, der Kurs muss sich ändern. In dem Zusammenhang hätte ich die Frage, kann man von einer Fortsetzung in reduzierten oder veränderten Maße dieser Erwartungsblüte, dieser Rezeption und Diskussion dieser Art Literatur verschiedenster Art, Zukunftserwartung, Endzeiterwartung und so weiter, im gegenreformatorischen oder späthumanistischen Zeitalter rechnen. Das ist die eine Bemerkung, die ich machen wollte, und vielleicht auch eine Frage darin, weil Sie da kompetent sind. Das war so ungeheuer reich, dieser Vortrag, und wunderschön, aber ich will meine Zeit nicht mit den fälligen Lobsprüchen verlieren. Nicht wahr? Das ist uns allen doch sehr eindrücklich sicher gewesen. Das Zweite ist, wenn ich eine Bemerkung zu machen hätte, eine Observation, dann fände ich eigentlich, dass der Titel sein müsste Umanesimo Italiano e Profezia. Denn sozusagen das Gegenbild des großen und so völlig unapokalyptischen und uneschatologischen Erasmus wird für mich immer als Kehrseite dahin zu, nicht, weil der ja die große Ausnahme ist in seinem Jahrhundert oder in seiner Zeit. Das Dritte wäre eine Erinnerung an den Vortrag von Herrn Fried. Welches ist das Milieu? Wie verhält sich also sozusagen populäres Milieu und gebildetes, gelehrtes bis klerikales Milieu, in dem diese große humanistische italienische Bewegung sich vollzieht, aber durchaus mit Wirkungen in eine breitere Öffentlichkeit gelegentlich? Herr Rosconi hat ja viel über die Predigt studiert. Wenn man daran denkt, dass die Situation um 1000 eine völlig andere gewesen ist, ich war die Fulbert von Chartres und die anderen Abo, die genannt worden sind, immer Apokalyptik, Bibel, Eschatologie als Reflexionsthema führender Kreise. Ich war, ohne dass man das unmittelbar mit populären Bewegungen damals schon in Verbindung bringen möchte. Also der ganze Weg, der von 1000 bis 1500 durchmessen ist, in der Mitte die ganze Geschichte, um 1200, 1300 die Bettelorden, die Städte, das geht dazwischen und ist doch eine grundsätzliche Verschiebung. Nicht wahr? Das vierte, glaube ich, was ich sagen wollte, schließe ich damit. Ich habe, das ist ein konkreter Fall, Sie haben nicht heute, aber glaube ich in einer Diskussion gestern den Namen von Petrus Galatinus genannt. Und ich habe bei der Suche nach den Handschriften der Joachimischen Expositio Super Apokalypsen gefunden, dass der große und wichtige Kodex der Stadtbibliothek in Todi, 43, 1523 vom Kardinal Penitentiar, ich weiß im Augenblick nicht, wer das war, nach Rom ausgeliehen wurde, um dort abgeschrieben zu werden. Und in der Vatikanischen Bibliothek sind die ganzen ungedruckten, schön geschriebenen Manuskripte des Petrus Galatinus, nicht wahr? Darunter ein vollständiger Kommentar zur Apokalypse, in der zweiten Hälfte der 20er Jahre geschrieben. Ein schönes Thema vielleicht für eine These die Laurea, denn unser einer hat nicht die Zeit, diese Dinge auch noch gründlich zu studieren. Und dieser Kommentar ist Karl dem V. gewidmet. Diese Widmung fand ich das Interessanteste dabei. Dunque, per il primo punto direi che la presenza di questi temi, lei parlava appunto dell'età medicea, l'età dei pontificati medicei, è abbastanza diffusa proprio in quest'epoca, perché appunto è l'età anche in cui lo stesso Egidio ha una grossa influenza. Ma è interessante che a un certo momento proprio c'è un tentativo di utilizzazione specifica a favore di Leone X di questi temi. Firenze, poco dopo il 13, cioè poco dopo la restaurazione medicea, la prima restaurazione, e avvengono episodi che non sono ancora stati del tutto chiariti. C'è prima la predicazione di questo frate Francesco da Montepulciano, che arriva, fa una predica probabilmente influenzata da motivi amadeitis, a mio parere, è un francescano conventuale. E suscita grande stupore perché fa questa predica nella quale proprio annuncia il diluvio, è vero? Sono una delle tante prediche apocalittiche di quegli anni. Anche qui l'ha studiato di nuovo di recente da Nicoli. Ed è una cosa che suscita molto clamore, tanto più che preoccupa anche le autorità politiche. Perché io ho trovato dall'Archivio di Stato di Firenze una curiosa lettera di Lorenzo di Nemur, no? Che era in quel momento a Firenze, il quale chiede di essere informato minutamente di questa predica. E poi viene imposto a questo frate di chiarire la sua posizione e di appunto esplicarla pubblicamente. E cosa stranissima, il frate muore nel frattempo. Tant'è vero che c'è una aggiunta proprio nel testo di questo documento d'archivio, con scritto accanto, il frate è morto. Che è una cosa. Poco dopo arriva a Firenze e comincia a parlare in Duomo il provinciale dei Carmelitani, il quale ricomincia a fare la solita storia, solite previsioni, piuttosto fosche, l'avvento dell'Anticristo, eccetera, però annuncia che c'è già il Papa Angelico. Il Papa buono, il Papa santo, e chi è? Leone X. Cioè, proprio un tentativo evidente. Sono anche molto vicini questi episodi, quindi c'è il modo di controbatterlo subito, da parte dei poteri. Sul secondo punto, sì, hai ragione, io mi sono limitato all'umanesimo italiano, proprio per non andare troppo oltre nel Cinquecento, è vero? Perché certamente poi andando negli umanesimi estro-italiani, le tracce appunto di questi movimenti profetici, specialmente intorno direi al terzo trentennio del Cinquecento crescono sempre di più. Direi che poi proprio molto spesso hanno una base originariamente umanistica anche molti dei movimenti apocalittici all'interno della Riforma. Questo è un fatto anche interessante. Per esempio c'è un caso tipico tra italiano e straniero, cioè è quel personaggio singolarissimo che è il Brocardo, questo è studiato da Rotondò tra l'altro, Brocardo, quale è stato scolaro di un curioso uomo di lettere italiano, Giulio Camillo del Minio, che era stato a Parigi, è vero, per diversi anni, amico di Sturm, aveva conosciuto bene Sturm, che ne parla in lettere a Melantone, eccetera, che a un certo momento addirittura, nel 1942 addirittura a Ginevra, e Calvino parla di lui con molto sospetto in una lettera, e questo Brocardo, che poi vive in Italia, vero, fa il maestro, scrive trattatelli di retorica e di dialettica sul tipo di quelli di Sturm, a un certo momento poi viene coinvolto in un processo inquisitoriale, riesce a fuggire e in Francia si rivela proprio un visionario e scrive proprio opere, vero, di tipo visionario, apocalittico, eccetera. E quindi tutta la grossa linea, vero, apocalittica, millenaristica, che è nella Riforma, ha molto spesso proprio anche fondamenti in tradizioni di origine umanistica, e di solito questo incontro è molto interessante. Bisogna vedere del resto l'influenza che anche Schwenfeld ha su tanti di questi umanisti italiani passati alla Riforma, poi, l'interesse è molto forte, specialmente tra questi personaggi che non aderiscono in fondo a nessuna chiesa, a nessuna confessione particolare, quelli che col termine di Cantimori si chiamano gli eretici italiani, eretici per eccellenza, perché dichiarati tali da tutti, eretici per tutti, come in un certo senso lo stesso Ochino, come più tardi nella sua ultima fase, e come più tardi tanti altri, vero, movimenti che molto spesso gli italiani, di cui appunto Calvino diffidava tanto, finivano in queste posizioni così. E quindi c'è tutto questo problema. Per quanto poi riguarda appunto il terzo punto, e qui ecco la questione è molto interessante, perché direi che proprio su questi temi si realizza una maggiore circolazione tra ambienti. Ecco, qui si vede come preoccupazioni che proprio alcuni casi studiati in questo libro della Niccoli, che secondo me è veramente un ottimo libro, rivelano una cosa impressionante, cioè temi che magari nascono, che hanno un'origine colta, che passano attraverso vari intermediari raggiungendo la predicazione popolare, proprio la più semplice, la più quella fatta addirittura non da preti, è vero, da frati neanche più, ma da gente che, da romiti, è vero, che si presentano come tali, persone che invasate, è vero, che dichiarano di essere profeti, e che di cui ci sono numerosi esempi. Queste poi spesso, queste predicazioni orali, ricevono una trattazione scritta, che poi per vari modi viene rielaborata e ritorna negli ambienti colti. Cioè c'è una specie di circolazione interessantissima, così come molte volte c'è il passaggio da una fonte scritta a una tradizione orale, e da una tradizione orale di nuovo allo scritto. Cioè proprio una circolazione interessantissima. C'è questo caso che io ho appena indicato, naturalmente, di questo stranissimo mito che a un certo momento si diffonde, siamo poco dopo la battaglia di Agnadello, che ha avuto conseguenze così, e si comincia a diffondere il mito che sul campo di battaglia di Agnadello o vicino a Agnadello compaiono l'esercito di morti. Cioè c'è della gente che dice di aver visto questo esercito di guerrieri morti che si combattono di nuovo a Agnadello. E questa visione appunto che viene interpretata naturalmente come un segno, poi è vero. Questa cosa nasce in un così, probabilmente si ha l'impressione che dalle prime notizie che l'abbiano visto un gruppo di uomini di servizio di un piccolo signore locale, il quale in una lettera descrive questo fatto. Questo fatto poi si diffonde attraverso scritture che vengono fatte a Roma, eccetera, e poi a un certo momento verrà utilizzato in favore di un'idea di ripresa di crociata, addirittura con l'intervento di un intellettuale di notevole livello, vero, che si è servito però completamente di queste cose popolari, che è il padre di Eframinio addirittura. E quindi c'è proprio un giro in questo caso. E la cosa ancora più interessante è che qui, mi pare giustamente, la Nicco ha intravisto addirittura la fusione tra questi temi soliti, vero, tradizionali, attesa di grandi rovine, di un momento, e il mito che lei ha ricostruito bene, un tema che risale al folklore germanico dell'esercito delle quattro tempora. Tra l'altro questo episodio avviene durante le quattro tempora, vero? Cioè è un tempo particolare. E da questo è risalita proprio, probabilmente siamo nel tra il Veronese, eccetera, dove probabilmente ci possono essere, vero, appunto, stratificazioni anche di folklore germanico. Cioè tutta questa estrema complicazione di questi fenomeni, vero, che investono ambienti diversissimi, quella cultura, noi siamo un po' troppo abituati a pensare a una separazione molto forte in quest'epoca tra gli ambienti colti, eccetera. Per esempio, a Firenze questo non si verifica quasi mai. C'è un tramite importantissimo, secondo me, tra la classe colta e i ceti popolari, ed è dato dalle botteghe artigiane, dalle botteghe degli artisti. Sappiamo che molti umanisti hanno grande familiarità con pittori, è vero, con scultori. Le botteghe dello scultore e del pittore sono botteghe artigiane, è vero, immerse nell'ambiente artigiano generale, vero, sono a fianco alla bottega dell'orafo, alla bottega del legnaiolo, eccetera, no? La diffusione quindi delle idee avviene molto attraverso questi piccoli tramiti, e poi col rovesciamento, vero, perché a un certo momento si risale dall'artigiano al mercante. Per esempio, uno dei più singolari seguaci di Savonarola, che poi finisce, poveretto, bruciato vivo, è questo Pietro Bernardino, il quale è un orafo, probabilmente orafo scultore. Sapeva leggere e scrivere, perché scrive le prediche, e si vede che ha anche un possesso di una certa cultura. Però i suoi seguaci sono stranissimi, sono stranamente costituiti, perché sappiamo, da una parte sono muratori, artigiani, dall'altra ci troviamo però anche dei nobili, come un canonico della famiglia dei Medici. E ci troviamo anche persone, ha un rapporto abbastanza stretto con Domenico Benivieni, quindi con un uomo di cultura, eccetera. Di lui si interessa a un certo momento per cercare di giustificarlo presso il vicario fiorentino, Giovan Francesco Pico, il principe di Concordia. Cioè c'è questa singolarissima, appunto, partecipazione, questo legame che a volte si sviluppa in maniera particolare. C'è poi un altro tramite anche molto importante, secondo me, a Firenze. C'è un elemento che unisce quasi sempre tutte le forme di espressione anche culturale a Firenze, ed è il comune richiamo a Dante. Cioè Dante non è soltanto a Firenze, è vero, un grande artista, è una persona che ha anche, che significa in qualche modo la vita culturale totale della città, e che è anche visto e sentito spessissimo come profeta. Cioè specialmente quei testi famosi, le famose pagine, vero, i famosi versi sopra la grande meretrice, eccetera, erano versi che a Firenze erano imparati in memoria dai popolani, dico popolani analfabeti, perfino nelle campagne spesso Dante è conosciuta a memoria da popolani, e particolarmente, e bisogna vedere come per esempio Ficino, che è abilissimo, sempre un uomo di grande abilità nelle sue manovre strategiche, si pone sempre sotto l'egida di Dante, traduce la monarchia in volgare, vero? La seconda traduzione in volgare della monarchia è di Ficino. E utilizza sempre, nel prologo del De Amore, che lui fra l'altro fa anche in volgare, è il primo forse a scrivere immediatamente alcune sue opere in italiano e in volgare, in modo che possano circolare in questi ambienti di tecnici, artigiani, eccetera. Infatti le sue opere fondamentali, direi dal punto di vista tutto religioso, vero? Più che filosofico, la sua filosofia si traduce poi direi in un disegno religioso, anche di trasformazione religiosa, che sono il De Christiana Religione, il De Amore, vero? Questo testo che ha avuto una fortuna, un'influenza in tutta la cultura europea del Cinquecento, enorme, e poi il De Raptu Pauli, vero? Questa specie di incontro col cristianesimo paolino, è vero, questa specie di esaltazione del viaggio di Paolo, è vero, della scelta di Paolo del Ratto, mistico. Questo li scrive in volgare, anzi addirittura il De Christiana Religione la stampa prima in volgare e poi in latino, e la dedica a due persone, sono sempre dedicati questi testi, compresa anche la traduzione in volgare della monarchia, quindi di un testo dove si attacca abbastanza duramente il papato, vero? Sono dedicati a due persone che sono tipiche di questi ambienti non più intellettuali ma direi intermediari anche col mondo popolare. Uno è Antonio di Tuccio Manetti ed è un tecnico, architetto, tecnico ma uno che lavorava, vero, nelle costruzioni in fondo con i muratori, no? Insieme. E l'altro è un uomo politico di bassa origine, popolo minuto, venuto su dal popolo minuto, personaggio molto legato ai Medici, che poi finirà, vero, decapitato, Bernardo del Nero. E sono tutte dedicate a queste due persone, che rappresentavano quindi un ambiente non di intellettuali, ma e il tramite è sempre dato. Per esempio nel prologo del tipico, nel prologo del De Amore, si dice che questo libro è scritto perché coloro che sono usciti dalla diritta via ritrovino, cioè c'è proprio l'utilità, e sono finiti nella selva, ritrovino la giusta via della, cioè proprio tutti i topoi danteschi, che tornano molto spesso, vero? Tra l'altro c'è un'abilità di Ficino in queste cose straordinarie. Nel De Amore chi espone il personaggio fondamentale, che poi finisce con l'esporre tutte le dottrine, perché direi due terzi del libro dialogo lo tiene lui, è appunto Giovanni Cavalcanti, che in molti casi ripete le dottrine, che si richiama costantemente al Cavalcanti, amico di Dante, cioè. C'è tutta una messa in scena, direi, abile per presentarsi in qualche modo anche su questa lunga linea dantesca che a Firenze rimane fondamentale, vero? Che rappresenta proprio, direi, anche il tessuto della cultura unitaria della città. Grande mito di Dante, intorno a cui tutti si sentono partecipi, anche direi l'uomo del popolano sa chi è Dante e sa appunto e dà il culto di Dante. Ja, ich glaube, ich sehe keine Wortmeldung mehr, obwohl ich nicht vermute, dass keine Fragen mehr sind. Können wir doch, nachdem Herr Selge schon angesetzt hat zu einer Zusammenfassung, dies als einen abschließenden Blick auf den Reichtum der Probleme hier betrachten. Ich danke Ihnen, Herr Basoli, dass Sie uns so ausgiebig und reichlich zur Verfügung standen. Ich danke allen, die in dieser Diskussion sich zu Wort gemeldet haben. Ich möchte, bevor ich die Sitzungen unseres kleinen Seminars schließe, doch noch einige Bemerkungen am Ende mir nicht versagen. Bemerkungen, die nicht den Anspruch erheben, eine Zusammenfassung zu sein. Ein solcher Anspruch wäre nach 5 Tagen der Arbeit oder überflüssig. Wir sind ja noch alle, erinnern wir uns daran, was wir in den vergangenen Sitzungen hier zusammen gehört und gesprochen haben, die also sozusagen nur noch eine Vergewisserung, eine Erinnerung sein sollen, nicht an das, was im Einzelnen gesagt worden ist, dann müsste ich das so oft bemühte Tonband hier ablaufen lassen und wir hätten nicht nur einige Minuten, sondern einige Tage hier nochmal zu sitzen und die Frage ist, ob das wirklich es wert wäre. Es kann auch nicht darum gehen, dass ich hier Ergebnisse fixiere, denn die Geistes Geschichte und überhaupt die geschichtliche Forschung kennt Ergebnisse immer nur in einem sehr spezifischen Sinne. Ich möchte mich eigentlich darauf beschränken, die Fragen zu nennen, die immer wieder uns beschäftigt haben, nicht die Antworten zu wiederholen, sondern die Fragen, auf die wir Antworten gesucht haben. Natürlich wird in einer Tagung über die Endzeiterwartung und Gegenwartsbestimmung im Mittelalter als erste Frage immer die im Vordergrund oder den Anfang machen müssen, die sich danach richtet, die Vorstellungsinhalte unserer Texte möglichst präzise und genau aufzunehmen. Das Szenarium, um den Begriff von Herrn Paczowski aufzunehmen, das entworfen wird über das, was auf die Menschen zukommt, möglichst präzise zu bestimmen und dabei bei dieser Bestimmung auch die Rückgriffe auf die biblischen und außerbiblischen Quellen und Traditionen zu beachten. Diese Arbeit kann nicht geschehen, wenn nicht der biografische und hermeneutische Rahmen der Quellen auch ganz energisch in die Betrachtung einbezogen wird. Herr Selger hat in dem ersten Vortrag dieser Tagung gezeigt, dass man über Joachim nur dann sprechen kann, wenn etwas geschieht, was bisher in der Forschung allzu selten präzise ins Auge gefasst worden ist, die schlichte Feststellung der Chronologie der Schriften hilft zum präziseren und vor allem zum sichereren Verständnis. Freilich ist diese Arbeit der Feststellung dessen, was an Vorstellungen überhaupt vorliegt, allein noch nicht das, was das Thema der Aufmerksamkeit der Historiker empfiehlt. Es kommt als natürliche Begleitung solcher Bemühungen um die Erfassung dessen, was war, natürlich auch die Frage nach der Rezeption dieser Vorstellungen in ihrer Zeit, nach der Aufnahmewirkung auf spezifische Zirkel, auf spezifische Gruppen, auf das, was immer wieder in der Diskussion und in den Relationen die Trägergruppen der Vorstellung genannt worden ist. Auch diese müssen mit möglichst genauer Methodik und möglichst breiter Erfassung der Zeugnisse sehr präzise beschrieben werden, bevor wir ein Verständnis erreichen, das wir als einigermaßen auf sicherem Boden stehend auffassen können. Diese Frage nach der Rezeption führt natürlich wiederum zurück auf das, was schon in der Erfassung der Traditionen, die zu den Vorstellungen führen, angedeutet ist. Auch hier kommen wir wieder auf die Traditionsgeschichte der Vorstellungen, auf die Traditionsgeschichte freilich, die dann sozialgeschichtlich verankert ist. Als dritte Frage, die auch immer wieder diskutiert worden ist und diskutiert werden muss und auf deren Beantwortung wir drängen müssen, ist die, wie diese Vorstellungen, welche Funktion diese Vorstellungen in ihrer Wirkung auf die Gruppen, die sie verbreiten und tragen, hat hinsichtlich des gegenwärtigen Lebens dieser Gruppen. Das heißt also, die Funktion, die diese Zukunftserwartungen haben für das gegenwärtige Leben derer, die sie vertreten haben. Ich glaube, diese Funktion der Zukunftserwartung für die Gegenwartsbestimmung, wie ich es mal nennen möchte, haben wir ja in ihrer, also diese Frage danach haben wir ja in ihrer Fruchtbarkeit in einer sehr ausführlichen Weise diskutieren können, bei der Verschmelzung joachimitischer Traditionen mit franziskanischen Bedürfnissen. Und das ist ja ein Kernbeispiel für die Notwendigkeit, sowohl für den Franziskanerorden, obwohl uns immer wieder gesagt worden ist, das hat mit Endzeiterwartung nichts zu tun, dass wir hier franziskanische Fragen diskutieren. Ich glaube, das ist richtig und falsch, dieser Einwand. Wir können ohne die Betrachtung solcher Rahmenbedingungen die Funktion von endzeitlich gestimmter Tradition in der Gegenwart ihrer jeweiligen Welt nicht erfassen. Insofern muss man, wenn man Endzeiterwartungen behandelt, eben auch andere Themen ansprechen. Das ist unvermeidlich und sogar man verfehlt die Wirklichkeit der Endzeiterwartungen, wenn man darauf verzichtet. Die Ziele freilich, wenn wir diese Erweiterung notwendigerweise vornehmen, stellt sich heraus, dass die Ziele der Gruppen, die sich zu Trägern solcher Traditionen machen, neue Traditionen durch Amalgam verschiedener älterer ins Leben rufen, dass die Ziele der Gruppen sich eben doch verschieden akzentuieren und insbesondere im Laufe der Zeit verschieden akzentuieren. Tradition in der Geschichte ist niemals sozusagen Übergabe eines vollständig vorhandenen Komplexes, der unbeschädigt weitergegeben wird. Das kommt natürlich auch vor. Aber im Wesentlichen ist Tradition Übermittlung und Vermittlung und damit Veränderung dessen, was sie tradiert. Sich daran zu erinnern, hat der Historiker je und je Anlass. Er wird also in der Frage nach der Endzeiterwartung die Frage immer wieder beantworten müssen, welche Akzentänderungen in den Traditionen zu beobachten sind und wie man solche Änderungen verstehen kann, worauf sie zurückzuführen sind. Er wird die Akzentverschiebungen im Wirkungswillen und in der tatsächlichen Wirkung solcher Predigten zu untersuchen haben, wobei die Frage natürlich auch nach Parallelen verschiedenen Wirkungen ein und desselben Textes in seiner Gegenwart notwendig bleibt. Zugleich aber führt diese Frage auch zu der generellen Beobachtung, dass Endzeiterwartung, Gegenwartsbestimmung und Reformforderung sehr häufig in eine unlösbare Verbindung eingehen. Dass also über Endzeiterwartung zu sprechen, ohne diese Forderungen an die eigene Gegenwart zu untersuchen, hieße der Endzeiterwartung ihren vielleicht sogar wesentlichen Teil zu nehmen. Für den Historiker stellt sich damit dann die Notwendigkeit, eine methodische Konsequenz zu ziehen, und diese ist in den Relationen und in den Diskussionen ja auch immer wieder angesprochen worden, die Konsequenz zu ziehen, die Endzeiterwartung nicht als in sich abgeschlossenes Phänomen zu betrachten, sondern sie als eine von verschiedenen Möglichkeiten auf die Gegenwart zu reagieren, aufzufassen, sie neben andere Möglichkeiten zu stellen. Ich erinnere nochmal an die sehr eindrückliche Situation in der Diskussion um das Jahr 1000. Es geht nicht darum, dass wir uns nur damit beschäftigen, was war damals Endzeiterwartung. Wir müssen eben und dann sagen, in meinen Texten gibt es sowas nicht, also hat es überhaupt nicht gegeben. Sondern es geht darum, dass wir die Endzeiterwartung einer bestimmten Zeit natürlich nach Möglichkeit in auch einer quantitativen Abschätzung ihrer Wirksamkeit in ihrer Zeit, aber so, wo das nicht möglich ist, zumindest qualitativ neben andere Formen der Gegenwartserfahrung der mittelalterlichen Menschen und natürlich auch der neuzeitlichen Menschen, das ist ja generell das Problem, zu stellen. Also die Endzeiterwartung als Alternative zu betrachten, als eine von möglichen Verhaltensweisen, und bei diesen Alternativen zur Endzeiterwartung, nach denen wir methodisch fragen müssen, eben, daran erinnere ich, wir haben das hier in unseren Diskussionen öfter gehabt, das können sein prophetische Traditionen, Vatizinien, Kabbalistik, Mystik, von der auch nur wieder die Rede war, und eben die schlichte uneschatologische Reformforderung und Reformpolitik, die durchaus als Konkurrentin neben die eschatologische Endzeiterwartung treten kann. Erasmus und Ficino, um das letzte Beispiel von Herrn Selge hier nochmal aufzugreifen, als Möglichkeiten in ein und derselben Aufgabe der Gegenwart gerecht zu werden. Und man wird beides nicht verstehen können, glaube ich, vollständig, wenn man die jeweils andere Möglichkeit aus dem eigenen Vorstellungshorizont schlicht und einfach streicht. Die Verbindung und Kontraposition verschiedener Traditionen in dieser Situation, auch verschiedener strenger eschatologischer, also strenger aufgefasster eschatologischer Traditionen in dieser Situation führt dann eben auch zur Beobachtung, die uns ja eine Betrachtung des Spätmittelalters immer wieder aufgefallen ist, dass eschatologische Endzeiterwartung durchaus nicht nur manipulierbar ist, was ist nicht für Manipulationen zu gebrauchen, sondern sogar primär aus manipulativen Absichten in die Debatte eingeführt wird. Auch das ist für den Historiker eine wichtige Frage, wenn eben solche Traditionen aufgegriffen werden, um Propaganda zu machen, oder ob sie neben ihren eigentlichen Absichten in der Bußpredigt auch solche propagandistische Folgen haben können. Der Weg von der Eschatologie zur Propaganda ist weit, aber kann manchmal sehr kurz sein, und wir werden das Klima der jeweiligen Zeit, das die Länge eines solchen Weges bestimmt, ebenfalls genau ausmessen müssen. Die Frage freilich, die ich eben angesprochen habe, kann auch die relative Bedeutung unseres Themas dem Historiker bewusst halten, kann ihn davor bewahren, nun etwa zu glauben, dass er mit dem Thema der Endzeiterwartung, wenn er dieses einigermaßen handwerklich ordentlich bewältigt hat, seine Arbeit schon beendet habe. Das Ziel, das eine historische Erforschung der Endzeiterwartung des Mittelalters verfolgen muss, ist ja nicht, dass wir aus irgendwelchen Gründen die Szenarien und Vorstellungen schlicht und einfach nachbuchstabieren, so wichtig das auch manchmal und so befriedigend es für manche ja auch sein mag. Es geht ja darum, in den Traditionen und Szenarien die Funktion und Wirkung von Quellenzeugnissen auf Zeitgenossen und das Funktionieren der Gesellschaft einer abgelebten Zeit in ihren Institutionen deutlicher zu erfassen und damit auch die Möglichkeiten institutioneller Wirkungen in einer Vergangenheit zu erfassen, die uns selber das nicht mehr sagen kann. Es ist die Benutzung auch dieser Vorstellungen zu einem Zutritt und Eintritt in die inneren Zusammenhänge eines uns durch seine Vergangenheit zunächst verschlossenen Zeitalters. Insofern also die letzte Erinnerung, auch die Geschichte der Endzeiterwartung des Mittelalters steht nicht für sich allein, sondern sie ist Teil unserer allgemeinen Bemühungen um die allgemeine Geschichte der Vergangenheit, und sie hat ihre Faszination für unsere Arbeit vor allem deshalb, weil sie einen besonders komplexen Zugang zur Gegenwart der Vergangenheit ermöglicht. Ich kann mit diesen sicherlich sehr abstrakten Bemerkungen nur hoffen, dass Sie auch Ihren Eindrücken von dem, was wir hier besprochen haben, einigermaßen entgegenkommt. Ich möchte nicht endgültig offiziell das Seminar schließen, ohne den Relatori, den Borsisti, den Gästen und all den Zuhörern zu danken für das, was sie an Vorbereitung und an Präsenz hier in die Arbeit des Seminars eingebracht haben. Wir danken natürlich auch dem Istituto, das uns mit einer überwältigenden Gastfreundschaft empfangen hat. Herr Prodi und seine Mitarbeiter haben es uns leicht gemacht, hier uns in Trento wohlzufühlen. Dass das Wetter uns noch zusätzlich verwöhnte, war sozusagen nur der I-Punkt auf diese schöne Erfahrung. Ich kann diesem Dank noch anschließen, natürlich gute Wünsche für Ihre Rückkehr in die Heimat und für die Zukunft. Und ich würde diesem Wunsch vor allem den Wunsch anfügen, dass Ihnen in der Erinnerung vielleicht auch an dieses Seminar die Wichtigkeit des Themas, das wir hier behandelt haben, nun weiterhin vielleicht verschärft und präzisiert im Bewusstsein bleiben möge. Technisch ist noch anzusagen, dass die Akten oder dass die Vorträge dieser Tagung ja gedruckt werden sollen. Insofern bitte ich alle diejenigen Relatori, die noch hier sind, ihr Manuskript in absehbarer Zeit abzuschließen, die Anmerkungen herzustellen. Herr Prodi hat mir gesagt, dass das Institut sehr dankbar wäre, wenn bis zum Ende dieses Jahres, also bis zum 31.12. die Manuskripte hier sein könnten. Jeder, und ich sage das bewusst auch vor den Borsisti, damit Sie ungefähr abschätzen können, wie lange die Publikation dauern wird, jeder, der also das Geschäft des Publizierens kennt, weiß, dass damit gesagt ist, dass man etwa dann ein Jahr später oder ein bisschen länger, vielleicht auch ein bisschen kürzer, das hängt von sehr viel Umständen ab, die man nicht unbedingt in der Hand hat, unter anderem natürlich auch von Fragen der Übersetzungsmöglichkeiten, der Korrekturen und wie auch immer und von den Postwegen, die ja nicht nur in Italien immer länger werden in der Gegenwart, der Fortschritt ist unaufhaltsam, auch in Deutschland in dieser Beziehung. Also man hat nicht alles in der Hand, aber man kann damit rechnen, dass am Ende des Jahres 89, Anfang des Jahres 90 vielleicht doch das Bändchen vorliegen kann. Es wird dann sozusagen erneut ein Erstaunen darüber geben, was hier geschehen ist. Jetzt, wo wir noch eine lebendige Erinnerung haben, hoffe ich, dass das Erstaunen dann sozusagen sich nur wohltuend von dem unterscheidet, was wir jetzt für Gefühle haben. Aber das ist eine Hoffnung, das braucht keine Gewissheit zu sein. Ich darf Ihnen nochmal danken für Ihre Mitarbeit und Gegenwart und darf hoffen, dass, wenn diese Gegenwart zur Vergangenheit geworden ist, dass sie zumindest auch angenehme Empfindungen in Ihnen weckt. Vielen Dank.